Ero in treno ed eravamo in viaggio da un bel po'. La fase imbarazzante in cui gli occupanti di uno scompartimento lottano per lo spazio vitale era fortunatamente già passata. La prima fase, perché ad ogni stazione il rito si ripete. Se un passeggero è solo, c'è il caso che faccia di tutto perché solo rimanga. Chiude la porta, tira le tendine, distribuisce giornali e cappello sui posti vuoti e si piazza proprio sulla porta, in modo che il malcapitato senza posto debba per forza chiedergli di farsi da parte. Una volta entrato, poi uno si trova automaticamente a rifare in coppia quello che prima aveva fatto l'altro. In treno il principio di Hobbes dell'homo homini lupus è palese, applicato con assiduità dalla maggior parte dei viaggianti, soprattutto nella sua dimensione etologica della difesa del territorio. Noi in quel momento, mentre ci avvicinavamo a Bologna, si era in quattro. Ero seduto in un posto centrale. Di fronte avevo tre persone. Alla mia sinistra i piedi scalzi di uno di quei tre e alla mia destra un posto radicalmente vuoto. Un giorno bisognerà parlare pure anche di chi si toglie le scarpe in treno. Vabbè. Oltre ad averci la matematica divina sicurezza circa lo stato delle proprie calze, costoro sono custodi di certo di ricchezze ideologiche inusitate, tutte da scoprire. Un giorno ne parliamo. Andiamo avanti verso Bologna. Sto leggendo Goffman, L'interazione strategica, un saggio del 69, dove il comportamento comunicativo è analizzato in termini di giochi. Mi ero soffermato su una sua osservazione a proposito del termine verità. Verità. Dice Goffman che con questo termine è difficile sapere se ci si riferisce a qualsiasi dichiarazione sincera, a qualsiasi dichiarazione esatta, oppure a qualsiasi dichiarazione esatta sincera. Facciamo l'esempio. Se uno mi chiede quanti anni ho e io rispondo 48, potrei essere sincero ma non esatto, perché mi sono dimenticato di annotare che l'11 marzo è già passato e che dunque di anni ne ho 49. Si può dire che io abbia detto la verità? Perché no? La verità tutta mia e tutta di quel momento, ben inteso, perché l'esattezza del riscontro non c'entra nulla con la sincerità o l'insincerità della mia risposta. Orbene, stavo riflettendo su cose del genere mentre stiamo rallentando per entrare in stazione a Bologna. In quel momento fa rapido capolino un tizio nello scompartimento, posa una copia del Times sul sedile vuoto alla mia destra e se ne va. Qui sorge uno psicodramma interpretativo fra me e gli altri tre passeggeri che con me dividono lo scompartimento. Ci siamo costretti in 4 e 4-8 perché salgono nuovi passeggeri, no? E ovviamente cercano un posto a sedere. Domandano: ci sono posti liberi? È occupato questo? Beh, sono le domande di rito, no? Si propende per una risposta fattuale. Un signore poco fa ha posato questo giornale. Risposta fattuale che sortisce l'effetto di far allontanare i pretendenti intrusi. Fatto sta che alla fine si parte da Bologna e i due posti sono ancora liberi, perché poi, vabbè, a rilevarne uno come presumibilmente occupato, la gente non abbia occupato l'altro, vabbè, questo è un mistero della psiche umana. È un po' come quel simpatico problemino che inizia con la domanda: ho due monete il cui valore somma 55 lire, ma una delle due non è da 5 lire. Di che monete si tratta? Tutti a pensarci su e a fare le proposte monetarie più strane, ma la risposta è ovvia, no? Una non è da 5 lire perché è da 50, ma l'altra sì che è da 5 lire. Ogni tanto sorgono dei blocchi, diciamo, al potere transitivo. Comunque i due posti sono ancora liberi, e liberi lo rimangono fino a Firenze, perché di quel tale che aveva posato il Times sul sedile alla mia destra non se n'è più saputo nulla. Ambiguità della segnaletica. È un giornale posato su un posto, può significare prenotazione, ma esiste anche l'abitudine a disfarsi dei giornali quando dai treni si scende. Il signore che era passato nell'arrivare a Bologna non aveva occupato un posto con un proprio simbolo, ma si era disfatto di qualcosa che non lo rappresentava più. Allora noi, dicendo come si erano svolti i fatti a chi chiedeva il posto, abbiamo detto la verità o no? Siamo stati sinceri? Siamo stati sinceri ma non esatti, per dirvi alla Goffman? O forse il caso dimostra che fra la sincerità e l'esattezza c'era un oiato temporale che rendeva le due cose in qualche modo incommensurabili fra loro? Siamo stati sinceri, ma soltanto dopo abbiamo potuto capire che non siamo stati esatti. Che poi in quel preciso contesto la sincerità venisse a tutto vantaggio del possesso territoriale dello scompartimento, vabbè, è un fatto che inviterei a non considerare del tutto casuale.